you feel, don't stay here. Tempo sed accel, mani tue, e chi lontani il tempo passa e non ha senso se. È uno di quei giorni che non passano mai.